Nel negozio del maestro André ho comprato un flautino, tiro li ro ri, un flautino. Aiolè, aiolè, nel negozio del maestro André. Aiolè, aiolè, nel negozio del maestro André. Nel negozio del maestro André ho comprato un pianino, plin plin plin, un pianino, tiro li ro ri, un flautino. Nel negozio del maestro André ho comprato un tamburello, teco teco teco, un tamburello. Aiolè, aiolè, nel negozio del maestro André. Aiolè, aiolè, nel negozio del maestro André. Nel negozio del maestro André ho comprato una fisarmonica, fon fon fon, la fisarmonica, teco teco teco, un tamburello. Tum tum tum.